Soprattutto siamo qua perché dal 2022, come Rete per l'Emergenza Climatica e Ambientale e Lega Ambiente, abbiamo presentato 4 proposte di legge di iniziativa popolare sui temi dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia e dello stop al consumo di suolo. A queste 4 leggi si è aggiunta una proposta di legge di iniziativa popolare da parte del Comitato No Autonomia Differenziata contro ogni autonomia differenziata. Ebbene, l'iter è iniziato dal 2022 e le proposte di legge giacciono ancora nei cassetti delle regioni senza che sia iniziata la discussione. Quindi noi oggi siamo qua per dire che deve partire la discussione. Diciamo anche che quelle leggi vanno approvate se sul serio si vuol produrre una svolta nelle politiche ambientali e sociali della regione, di cui c'è assoluto bisogno. L'ultimo esempio è semplicemente la situazione rispetto al consumo di suolo. Avete visto tutti che appunto sono usciti i dati ISPRA. Nel 2024 l'Emilia Romagna è la regione che ha consumato più suolo. Noi abbiamo presentato tra le 4 proposte di legge anche una che dice stop al consumo di suolo per modificare la legge urbanistica. È completamente assurdo che la discussione sulle nostre proposte non sia ancora iniziata. Nel frattempo è cambiata la legislatura, nel senso che Bonaccini non è più presidente, adesso c'è un altro presidente. Con la nuova giunta avete avviato dei dialoghi, come intendete procedere? Anche perché non so se le leggi popolari sono decadute insieme alla fine della legislatura, quindi le dovete ripresentare, come funziona? Funziona che noi appunto le leggi le presentiamo ancora nel novembre del 2022. L'Assemblea regionale ha tempo 18 mesi per discutere e approvarle. Diciamo che 18 mesi vennero a scadenza nel momento in cui si interruppe la legislazione precedente. E quindi con la nuova legislatura le proposte di legge passano esattamente, riprendono da capo il loro iter. Quindi le proposte di legge, le 5 proposte di legge sono passate alla nuova legislatura, sono state assegnate alla Commissione, 4 alla Commissione Ambiente e 1 alla Commissione Affari Legislativi il 12 di febbraio di quest'anno. Da quel momento però non è stata fatta nessuna discussione. Nel frattempo abbiamo chiesto, dopo un presidio che facemmo qua sotto il 27 maggio, di poterci confrontare con i capigruppo della maggioranza politica. Abbiamo sviluppato una serie di incontri, l'ultimo l'abbiamo fatto il 5 di settembre. Il 5 di settembre ci è stato detto da parte dei capigruppo che avevano bisogno di riflettere, di confrontarsi maggiormente al loro interno e che poi ci avrebbero saputo dire. Da quel momento è calato il silenzio e quindi anche quel confronto lì in realtà è stato un confronto più, diciamo, di metodo, è stato un confronto per dare l'idea che c'era una qualche disponibilità, si potrebbe leggere come un confronto che in realtà è un muro di gomma. No, possiamo solo aggiungere che è tutto evidente che è necessario che ci sia una saldatura tra democrazia in difficoltà in questo momento, come tutti possiamo sapere, e movimenti tipo il movimento ambientalista che ha prodotto insieme al Comitato per l'Autonomia Differenziata contro l'autonomia differenziata, che ha prodotto 4 leggi di iniziativa popolare. Se le risposte sono evasive, così come abbiamo registrato sino adesso, comprese le ultime dichiarazioni da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, De Pascale, che sulla legge sul consumo di suolo dice una serie di cose che insomma obiettivamente inesatte, no, senza prendere atto che il rapporto ISPRA denuncia un fatto gravissimo, che il consumo di suolo di questa regione ha raggiunto livelli stratosferici, e dimenticandosi anche di dire che non solo ha raggiunto livelli stratosferici, ma continuano a essere interessate zone ad alto rischio idraulico, considerato tra l'altro che veniamo da anni in cui il rischio idraulico si è manifestato in tutta la sua gravità insieme al rischio frane dell'Appennino. È chiaro che noi riteniamo che non si possono fare ammiccamenti e aggiustamenti alla legge regionale, ma che bisogna intervenire con proposte radicali così come quella che abbiamo presentato, e vorremmo che queste aule finalmente iniziassero a discutere con noi che abbiamo presentato le leggi di quello che vorremmo che fosse un iter che porti a una soluzione, a un radicale cambiamento della legge regionale sul consumo di suolo, che ha dimostrato tutta la sua inefficacia.